Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Chiaramente parleremo della notizia che anche i nostri GR24 vi hanno raccontato, oggi presente su tutti i giornali a partire dal Sole 24 Ore, e mi riferisco a Italcementi e all'operazione appunto che è stata annunciata ieri sera. Alcuni titolano un altro pezzo di Made in Italy in mani estere. Italia Immobiliare, la finanziaria della famiglia Pesenti, ha confermato infatti l'accordo con Heidelberg Cement che prevede l'acquisto della partecipazione detenuta nel capitale azionario di Italcementi a un prezzo di 10,60 euro per azione, il che rappresenta anche un premio di circa il 70% rispetto al prezzo di borsa degli ultimi anni per quello che riguarda Italcementi. Il valore complessivo dell'operazione è di 1,6 miliardi. Da questo punto di vista è ovvio che le ripercussioni vi siano anche in borsa sul settore cementiero. Buzzi Unicem guadagna il 6,55%, ma soprattutto, è ovvio, Italcementi fa il 49,24% di rialzo a 9,83 euro. Ripeto, il prezzo offerto è 10,60 euro, quindi c'è ancora margine per crescere. Italmobiliare, la controllante, sulle risparmi non convertibili fa il 45% di rialzo, Italia Immobiliare, le ordinarie, il 28% di rialzo. Ne parleremo tra breve, passerà di mano quindi il 45% e in quello in mano ai Pesenti. Nascerà il secondo gruppo del cemento al mondo. Heidelberg Cement infatti nel 2014 ha registrato ricavi per 12,6 miliardi, a quasi 45.000 dipendenti in oltre 40 paesi. Italcementi vale molto meno, vale quasi un sesto, 2,3 miliardi, ma con questa operazione viene valutata circa 3 miliardi. Ovvio che alcuni dicono, ci sono varie dichiarazioni, ecco un altro pezzo di Italia, lo dice Matteo Salvini per esempio, un disegno di occupazione militare dell'Italia. Se fossero libere scelte su un libero mercato di liberi imprenditori, nulla question, se sono scelte figlie di una costrizione, di un'Europa, una moneta montata d'arte per aiutare i tedeschi, sono parte di una strategia militare. Ora sapete che chi vi parla non è mai stato tenero con la Germania e la politica che la Germania ha adottato a livello europeo nella gestione delle crisi europee a partire da quella greca. Però adesso non è che ogni volta che il compratore tedesco, parliamo di occupazione, se il compratore francese o è un fondo sovrano del Qatar va bene, cioè, insomma, l'importante è che sia un investimento estero che va a valorizzare la società italiana. Faccio notare che nel lusso è successo di tutto in questi anni, e con i francesi a fare da padroni, Louis Vuitton Moanessi ha comprato l'Europiana, Bulgari, Kering ha comprato Gucci, Bottega Veneta, Pomellato, Dodo, Sergio Rossi, Brioni, Valentino è stato comprato dal Qatar. Quello che resta di Ferré, del gruppo che ha riferimento, che ha sede e la parte dell'azionario più forte in Dubai. Per cui insomma evitiamo di dire che ogni volta che il gruppo, questo sarebbe sbagliato oggettivamente, se è un compratore estero quello che non va a vedere è se valorizzi o no. Nell'operazione di borsa sicuramente il valore per gli azionisti c'è, perché ripeto, viene valutato il 70% in più il titolo rispetto al prezzo degli ultimi tre mesi, e oggi guadagna il 46%, il 49% adesso Italcementi, e valorizza e valuta complessivamente 2,3 miliardi. Adesso ne parleremo tra brevissimo. Le altre notizie, visto che parlavamo di borsa, diamo la borsa in generale: meno 0,31% l'indice, contro Parigi che fa più 0,80%, Francoforte più 0,30%, Londra più 1%, l'America più 0,40%, euro su dollaro a quota 1,10%, Buzzi Unicem più 6,5%, Tods più 3,16%, Tenaris più 3%, Enel Green Power più 3%, Moncler più 1,5% come Ferragamo, 1,30 guadagna Prismian e Telecom Italia, l'1,20 Banco Popolare, l'1,1 è rialzo di Unipolsai. Fronte opposto CNH Industria meno 4,5, Monte dei Paschi meno 3,60, il 3,20 lo perde Unicredit, il 2,80 Saipem, il 2,5 Azimut, l'1,70 è il calo di Fiat Chrysler, l'1,30 quello di UbiBanca. Questo per quello che riguarda la borsa. Poi parleremo anche di un'operazione che, visto che riusciamo a respirare in questi giorni, nel senso che la Grecia, sì, daremo gli aggiornamenti anche sulla Grecia, ma non è critica, parleremo anche di un'operazione che va verso un consolidamento, diciamo così, del mondo del credito cooperativo. Oggi a Palazzo Mezzanotte, nella sede della Borsa Italiana, è stata annunciata la nascita di una holding bancaria di tutte le casse rurali delle BCC che fanno capo alla Cassa Centrale nel Nord-Est. Il gruppo si chiamerà Cassa Centrale Banca e va, al di là, diciamo, dei tecnicismi e dei dettagli specifici, nella direzione di un consolidamento, come si dice in gergo, del settore bancario. Praticamente si tratta di tutti pensano che alla fine si arriverà a un maggior consolidamento nelle 379 banche cooperative italiane, ma questa è un'accelerazione. Ne parleremo più avanti con i diretti interessati. Adesso però le altre notizie in breve, fermo restando che 349-238-6666 come sempre il numero per i vostri sms, e poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Le borse asiatiche, oggi c'è stato un rimbalzo non sufficiente a recuperare le perdite di questi giorni. Comunque Shanghai è chiuso con un aumento del 3,5%, Shenzhen del 4%. Più cauto, diciamo così, il rialzo di Hong Kong, più 0,42%. Veniamo all'Europa. Allora, la Grecia, il premier greco Tsipras, anche in questo caso chi ha ascoltato i GR24 già conosce la notizia, ma insomma il premier greco Tsipras ha detto di non volere elezioni anticipate, ha avvertito però che i ribelli del suo partito, Syriza, potrebbero forzargli la mano, ha anche spiegato che se perderà la maggioranza parlamentare a causa dell'ala radicale del partito, dovrà indire nuove elezioni. Nel frattempo la Banca Centrale Europea tiene ferma la liquidità di emergenza a 90 miliardi, l'aveva innalzata dopo l'accordo il 22 luglio di 900 milioni a 90 miliardi e 400 milioni, lo tiene a questo livello. Nel frattempo oggi, secondo il quotidiano greco Katimerini, i vari responsabili bancari hanno detto al giornale che dopo l'imposizione del controllo sui capitali le banche hanno risolto i problemi di flusso di cassa ed ora la loro attenzione si è spostata sulla ricapitalizzazione, cioè il settore bancario greco dispone, secondo le dichiarazioni riportate oggi dal quotidiano greco, disporrebbe di abbastanza liquidità per soddisfare le esigenze dell'economia createsi in seguito all'imposizione del controllo sui capitali a fine giugno. E poi il procuratore, questa è una vicenda invece più greca, ma insomma riguarda anche la storia recentissima della Grecia, il procuratore della Corte Suprema Ellenica, Efterpi Kouzamani, ha inviato ufficialmente al Parlamento una nuova causa, è la terza in tre giorni, intentata contro l'ex ministro delle finanze Yanis Varoufakis, per il suo coinvolgimento con altre persone nel cosiddetto piano B per l'uscita della Grecia dall'area euro. È il famoso audio, che adesso magari vi facciamo anche riascoltare, in cui Varoufakis era stato registrato mentre spiegava a un gruppo di gestori di fondi, scusatemi il raffreddore, a un gruppo di gestori di fondi quale sarebbe stato il piano B e come si sarebbe potuto realizzare. È un po' complicato utilizzando un PIN sui codici fiscali dei greci. Perché lo dico? Perché l'accusa arrivata oggi al Parlamento greco a Varoufakis è di violazione dei dati personali dei cittadini, un reato che in Grecia prevede una pena sino a 20 anni di reclusione. L'Assemblea dei deputati greci annuncerà ufficialmente domani le azioni legali intentate nei confronti dell'ex ministro e poi dovranno esaminare le accuse e quindi chiedere le raccomandazioni di una commissione esaminatrice o un'inchiesta sulle attività di Varoufakis per decidere se poi è una specie di, diciamo, di commissione parlamentare di autorizzazione a procedere, diremmo noi in Italia, per decidere se revocargli l'immunità e consentire così che sia sottoposto a processo. Allora ascoltiamo di nuovo questo passaggio in cui, appunto, registrato di Varoufakis, in cui Varoufakis a un gruppo di gestori di fondi internazionali spiegava qual era l'ipotesi del piano B. Il primo ministro, prima di diventare premier, prima che vincessimo le elezioni a gennaio, mi aveva dato luce verde per organizzare un piano B. E io ho messo insieme un team molto preparato che doveva necessariamente essere una piccola squadra, perché questa storia andava tenuta segreta per ovvie ragioni. E abbiamo lavorato dalla fine di dicembre o dall'inizio di gennaio per metterla insieme. Lasci che le illustri alcuni degli impedimenti politici e istituzionali che ci hanno reso difficile completare il lavoro e quindi mettere in atto il piano. Avevamo quasi finito. Avevamo il piano B, ma il problema era passare dal gruppo di 5 persone che lo aveva stilato a quello di 1000 necessario per implementarlo. Per quello avrei avuto bisogno di un'autorizzazione che non è mai arrivata. Stavamo organizzandoci su più fronti. Ne nomino uno solo. Prende il caso dei primi istanti in cui le banche vengono chiuse. I bancomat non funzionano e ci deve essere qualche forma di pagamento parallelo mediante il quale si mantiene operativa l'economia per un po' di tempo, per dare alla popolazione la sensazione che lo Stato controlli la situazione e abbia un piano. Quello che avevamo stabilito era il seguente. C'è un sito del fisco, come c'è in Gran Bretagna e ovunque, dove i contribuenti vanno con il loro codice fiscale e trasferiscono via web banking fondi dal loro conto corrente al codice fiscale, in modo da pagare l'IVA, le tasse, eccetera. Avevamo pianificato di creare di nascosto dei conti di riserva legati a ogni codice fiscale solo per mantenere il sistema in funzione in segreto. E solo premendo un bottone avremmo potuto dare dei PIN ai contribuenti. Questo avrebbe creato un sistema bancario parallelo mentre le banche dovevano restare chiuse per l'azione aggressiva della BCE che ci negava un minimo di respiro. Era un piano ben congegnato e credo avrebbe fatto una grossa differenza, perché in breve tempo avremmo potuto estenderlo e sarebbe diventato un sistema parallelo efficiente, ovviamente denominato in euro, ma in un attimo lo avremmo potuto cambiare in dracme. It could be converted to a new drachma. Questo piano complicato, il sito dove metteris, dove i greci pagano i soldi per l'IVA, cioè, è da lì che nasce l'accusa di violazione dei dati personali dei cittadini. Comunque, restando sulla Grecia, oggi, scusatemi gioco di parole, che non sappiamo ancora come andrà a finire la vicenda di Varoufakis, ma oggi il ministro dell'economia italiano Piercarlo Padoan, intervenuto alla Camera, ha detto che un allungamento delle scadenze dei finanziamenti a favore della Grecia anche nell'ordine di 30 anni, quindi l'allungamento del debito greco, che vuol dire di fatto una rinegoziazione, anche nell'ordine dei 30 anni, come prospettato dal Fondo Monetario Internazionale, avrebbe un impatto molto contenuto sui conti pubblici italiani. Vorrei soffermarmi sulle implicazioni per l'Italia del finanziamento del programma in favore della Grecia. Come è noto, il contributo italiano al primo programma per la Grecia del 2010-11 è venuto tramite un prestito bilaterale di 10 miliardi. I primi rimborsi in conto capitale sono previsti a partire dal giugno 2020, gli ultimi nel 41, e pertanto non sono rientrati finora nell'orizzonte temporale del bilancio pluriennale. Un allungamento delle scadenze, anche dell'ordine dei 30 anni, come prospettato dal Fondo Monetario in alternativa alla cancellazione, avrebbe un impatto molto contenuto. Il contributo al secondo programma avviene attraverso la concessione di garanzie sui titoli emessi dal meccanismo finanziario IFSF. Questa cifra non è limitata alla Grecia, ma corrisponde al totale del programma di emissione di IFSF. Complessivamente alla Grecia questa istituzione ha erogato finora circa 131 miliardi di euro. La quota italiana è pari a circa 25 miliardi. Ah, Ancora, veniamo invece, restiamo in Italia, ma sui temi italiani. Lo spread italiano è a 118 punti, quindi stabile, il rendimento all'1,87%. Il Ministero, anzi l'Agenzia delle Entrate in questo caso, fa notare che sul totale di 20.400.000 modelli 730 precompilati dal fisco, inviati tramite intermediari o in fai da te ai contribuenti italiani, sostanzialmente per il 93% del totale il 730 è stato fatto in modalità, appunto, quello che il ministero chiama fai da te. Per gli oltre 17 milioni che invece hanno chiesto aiuto a intermediari, scompare l'obbligo di conservare ricevute o scontrini. Nel frattempo, nel primo anno di sperimentazione del 730 precompilato, hanno inviato la propria dichiarazione oltre 1.400.000 cittadini. A operazione conclusa, gli utenti che hanno avuto chiesto il PIN, gli utenti di Fisco Online, raggiungono quota 4.500.000. E a questi dati sono dedicati i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. Oggi la firma è del vice direttore Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Tempo di bilanci per l'operazione modello 730 precompilato, ovvero per la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi partendo da alcuni dati già in possesso del fisco, possibilità che quest'anno ha debuttato in modalità sperimentale. Il termine per presentare questo modello si è chiuso nei giorni scorsi, il 23 luglio. I dati forniti oggi dall'Agenzia delle Entrate sono effettivamente incoraggianti e mostrano un elevato gradimento di questa modalità semplificata di adempiere agli obblighi fiscali. Circa 1,5 milioni di contribuenti ha scelto di inviare il modello direttamente online, altri 17 milioni di cittadini lo hanno inviato tramite il CAF o l'intermediario. Complessivamente il 93% dei contribuenti, parliamo di 19 milioni di persone, ha utilizzato il modello precompilato, il che naturalmente è un dato positivo, un buon risultato. Certo, non proprio tutto è filato liscio, molti cittadini hanno dovuto correggere dati errati, hanno riscontrato incongruenze, errori, a volte non risultavano indicati nel modello i redditi dei fabbricati, altre volte le detrazioni erano sbagliate. Però, insomma, complessivamente, bisogna riconoscerlo, il giudizio è positivo. Siamo solo ai primi passi, ci vorrà ancora molto tempo prima di ricevere a casa un modello 730 che sia davvero precompilato e completo, ma forse questa volta sono davvero state gettate le basi per una semplificazione importante a favore dei cittadini. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Due notizie sull'economia italiana. Il Centro Studi Confindustria stima un aumento a luglio della produzione industriale dello 0,4% rispetto a giugno, e tra l'altro al netto del diverso numero di giornate lavorate, la produzione a luglio, la produzione industriale dovrebbe conoscere rispetto a un anno prima, che è il dato che più ci interessa, un significativo aumento, 2,6%. Bene anche gli ordinativi, che crescerebbero, secondo le stime del Centro Studi Confindustria, del 2,7% rispetto al dato di giugno 2015 rispetto al giugno 2014. A questo punto, sempre il Centro Studi di Confindustria stima un incremento della produzione dello 0,8% nel secondo trimestre del 2015. Già avevamo acquisito uno 0,5% nel primo trimestre del 2015 rispetto al quarto. Allora, poi la manifestazione dei lavoratori della pubblica amministrazione in protesta davanti alla sede del Ministero per chiedere il rinnovo del contratto. Il ministro della pubblica amministrazione Mariana Madia è scesa e si è intrattenuta qualche minuto per parlare con i manifestanti. Prima ha detto poi la Madia: definiamo le risorse, poi apriamo la contrattazione. Non ha senso iniziare con polemiche sterili. I sindacati però rispondono, la CGIL, Rossana Dettori: senza risposte a settembre siamo pronti allo sciopero. E ancora la CISL, per voce del segretario generale Maurizio Bernava: il governo si è chiuso a riccio, se non ci sarà lo sblocco anche lo sciopero è uno degli strumenti in campo. E sulla stessa linea anche il segretario generale della UIL Carmelo Barbagallo. E poi una nota di Alitalia. Allora, l'amministratore delegato della compagnia Alitalia, Silvano Cassano, ha detto: attenzione, i danni subiti da Alitalia come per le conseguenze dell'incendio divampato lo scorso 7 maggio all'aeroporto di Fiumicino ammontano fino ad ora a 80 milioni di euro. E ha aggiunto in maniera molto polemica e anche tranchant: se Fiumicino continuerà a puntare su compagnie low cost e offrire servizi mediocri, Alitalia sarà costretta a spostare la sua crescita altrove, non sappiamo dove, ma insomma è sicuramente una minaccia, poi non so se avrà delle conseguenze. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Allora, il primo tema, che è un tema già trattato, ripeto, con la massima, si può dire, il termine laicità possibile, quindi senza sposare una causa, un'ideologia, una religione o un'altra, per cui non è che ci lamentiamo sempre degli investimenti stranieri che mancano all'appello in Italia, altri paesi. Ricordate il famoso parallelo di Padoa-Schioppa su Wimbledon? Scrisse in un famoso editoriale l'ex ministro Padoa-Schioppa, disse: attenzione, gli inglesi non hanno interesse, non ci tengono che vinca Wimbledon un inglese, per loro interesse è che Wimbledon resti il più importante torneo di tennis al mondo. La metafora era la seguente: all'economia aperte e competitive non importa che sulla proprietà sventoli la bandiera italiana o francese o inglese, interessa che il mondo degli investimenti vada in quel paese, perché quello è il paese più competitivo dove investire e dove si riesce meglio a competere. Questo era il paradosso di Wimbledon. Lo riprendiamo perché andiamo a commentare poi nella cronaca e nell'attualità l'operazione annunciata ieri e che valorizza il gruppo Italcementi, era già chiaramente stata anticipata, lo valorizza in borsa di quasi il 70% e a livello complessivo Italcementi vale 2 miliardi e 300 milioni, l'offerta dei tedeschi di Heidelberg Cement lo valuta invece 3 miliardi di euro. Andiamo con ordine, primi dettagli dell'operazione e poi invece una riflessione complessiva. Il 45% in mano alla famiglia Pesenti, infatti l'operazione è stata fatta da Italmobiliare, che è la finanziaria della famiglia Pesenti, verrà ceduto al prezzo di 10,6 euro per azione, un premio del 70%, il valore complessivo è 1.666 milioni di euro. Dicevo, il 45% passerà di mano, nascerà il secondo gruppo del cemento al mondo e Italmobiliare riceverà come parte del corrispettivo della transazione azioni ordinarie di Heidelberg corrispondenti a una quota fra il 4 e il 5,5% del capitale post aumento, un controvalore di 560 milioni di euro. Il restante, circa 900 milioni, verrà pagato in contanti alla famiglia Pesenti. Allora, logica industriale intanto e operazione nell'aria con Paolo Bricco del Sole 24 Ore. Buonasera Paolo. Sì, buonasera Sebastiano e buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Io anticipo, dai, così lo faccio, che tu dovresti avere un'intervista anche domani con... Domani abbiamo una lunga intervista, un lungo colloquio con Carlo Pesenti, l'amministratore delegato di Italcementi e anche di Italmobiliare, che spiega le ragioni industriali, non soltanto dunque l'opportunità finanziaria, di un cambio di passo così importante e per il capitalismo italiano e per anche questa famiglia imprenditoriale. Allora, faccio notare che la nota diffusa ieri in serata proprio di Giancarlo Pesenti recitava: un imprenditore sa che l'importante è garantire lo sviluppo futuro dell'attività più che arroccarsi nella continuità del controllo dell'azienda. Immagino che, se non voglio anticipare e svelare nulla, la leggeremo domani su Sole 24 Ore, ma immagino che sarà poi questo il taglio che darà, che è poi la logica che la famiglia Pesenti ha sempre evidenziato in questa operazione. Paolo? Sì, l'idea è quella che a mercati globalizzati ormai compiuti, le economie di scala finanziarie, tecnologiche, industriali, logistiche siano ingenti. A quel punto o uno riesce a fare un salto dimensionale, e per dire la famiglia Pesenti ha anche provato a farlo a fine dell'anno scorso facendo offerte per alcune attività in Canada di altri gruppi concorrenti, oppure è giusto intavolare, nella logica di questa famiglia imprenditoriale, discorsi con gruppi molto più grandi. In questo caso la logica industriale è quella del confronto con un gruppo che ha una capitalizzazione di borsa pari a 7 volte e ha un fatturato maggiore nell'ordine di 3,5-4, quindi un gruppo notevolmente più grande, un gruppo che è assolutamente complementare come prodotti ed è assolutamente complementare anche come tecnologie e come mercati di riferimento. Dunque si va a un processo di inglobamento soft che, per esempio, sull'Italia non dovrebbe provocare alcuno sconquasso, perché non vi sono duplicazioni. Questo va detto, perché in queste in questo tipo di operazioni, soprattutto il soggetto passivo, e in questo caso Italcementi è soggetto passivo, rischia sempre di perdere le piume. Questo in questo caso non dovrebbe, a logica, avvenire. Allora, su questo, che è poi il punto focale, perché la domanda che tutti si fanno: bene, un capitale tedesco, ripeto, non c'entra se è tedesco, francese, inglese, però poi va a valorizzare, come hanno fatto, e poi lo racconteremo, anche i gruppi del lusso. Fino adesso tutti i gruppi del lusso francesi che hanno comprato marchi italiani li hanno valorizzati, non li hanno né delocalizzati né svenduti, ci mancherebbe. Vuol dire, quando compri e metti i soldi non sei stupido, lo dico con massimo rispetto, e vuoi valorizzare un marchio, non vuoi far fuori la concorrenza come pensano alcuni. Tant'è che il presidente di Heidelberg Cement, e si chiama Bernd Scheifele, ha detto che nessun'altra impresa del settore cementiero era così complementare con i loro affari operativi come Italcementi. Nessuno completa i nostri affari così come Italcementi, ed ecco perché era il momento giusto per accelerare la nostra crescita con questa transizione, e abbiamo pagato un prezzo adeguato all'alto valore dell'azienda. Dall'acquisizione arriveranno chance per un ulteriore sviluppo sui mercati. I sindacati sono invece preoccupati, ci preoccupa l'accordo sia nel metodo che nel merito, dicono che getta ombre inquietanti sul futuro della società e sul destino di circa 3.000 dipendenti italiani. Resta con noi, Paolo, al metro, la pubblicità, perché appunto questa complementarietà e questo, diciamo, integrarsi negli affari operativi in vista di un rilancio del settore immobiliare è lo snodo cruciale, come dicevo, per capire se l'operazione è un'operazione industriale, e allora dovremmo tutti essere contenti se Italcementi si rafforza, oppure era un'operazione di acquisizione con un respiro minore, ecco, per essere buoni. Dopo il meteo. State ascoltando un programma offerto da Se parti, parti con noi. Europa Assistance. You live, we care. Focus Economia. Allora, nel 1993 furono gli svizzeri della Nestlé a comprarsi il marchio Italgel, che voleva dire gelati Motta, antica gelateria del Corso, la Valle degli Orti, e poi il gruppo dolciario italiano Motta Alemagna, poi è tornato alla Bauli di Verona. Vado avanti perché c'è stata poi l'intera operazione del colosso elvetico sempre Nestlé con l'acqua minerale San Pellegrino, le controllate Levissima, Recoaro, Vera, San Bernardo, Panna, Galbani, Locatelli, Invernizzi e Cademartori invece sono di proprietà di Lactalis, e poi che è appunto il re del Camembert che si è comprato anche Parmalat nel 2011, gli oli Ciro Bertoli De Rica li prese Unilever nel 93, poi li ha ceduti alla Spagnola nel 2008, la Spagnola De Oleo, già titolari di Carapelli, Sasso e Friol. Se andiamo dall'agroalimentare al lusso o gli yacht di Ferretti che adesso sono di proprietà di Shandong Heavy Industry, Weichai Group, le collezioni di Crizia di proprietà di Maris Frog Fashion Company, il lusso che è andato, ricordavamo prima, Louis Vuitton Moanessi ha preso loro Piane Bulgari, Kering ha preso Gucci, Bottega Veneta, Pomellato e Dodo, Sergio Rossi invece è andato al Paris Group, che vuol dire Dubai, mentre la Rinascente appartiene alla thailandese Central Group of Companies, in mani americane invece Poltrona Frau che ha comprato Edgeworth. Sulle telecomunicazioni potremmo far notare che Edison è di EDF, Saras è bilingue perché ci sono i russi di Rosfnet, potremmo andare avanti con Telecom che da poche settimane è controllata dai francesi di Vivendi e continuare con altri grandi gruppi, per esempio l'industria ferroviaria nazionale che è completamente in mani straniere, se vogliamo dire così, perché Fiat Ferroviaria è controllata da Alstom. La Tecnomasio Brown Boveri è passata prima sotto Daimler Benz e poi sotto la canadese Bombardier. Ancora lo scorso 24 febbraio Ansaldo Breda è stata venduta e il 40% di Ansaldo STS era giapponese Hitachi. Pirelli parla cinese, ChemChina è il nuovo socio forte del gruppo. Quindi voglio dire, non bisogna, la lista è interminabile, preoccuparsi tra virgolette, bisogna capire quello che è il piano industriale. Paolo Bricco, su questo ovviamente i sindacati dicono beh, non ci è piaciuto il modo e il metodo, sono preoccupati, lo fanno anche come per definizione. Paolo? Ma il metodo è stato assolutamente di una riservatezza assoluta. I primi colloqui si sono svolti a marzo e da allora, nonostante sia passato in comitato esecutivo e in consiglio di amministrazione, come racconta appunto Carlo Pesenti nell'intervista che pubblicheremo domani sul quotidiano Il Sole 24 Ore, non è mai trapelato il minimo rumor e questo è un dato di fatto. E la sostanza dell'accordo invece devo dire che a me fornisce il senso industriale più che non speculativo finanziario. È vero che le azioni sono state pagate molto bene, va però detto che il contesto in cui questa operazione è nata è un contesto puramente industriale, non vi sono advisor, non vi sono banche ad affari che siano andati a ingolosire i Pesenti. Con posso dire a tutta con massimo rispetto, non c'è nemmeno un socio certo forte come private equity, non perché io ce l'abbia con private equity, però quando un socio è solo finanziario ti puoi aspettare esatto, che faccia l'operazione per caso, diciamo, guadagnare finanziariamente caso, e poi se ne esca. In questo caso no, prego. Un azionista interessato né un intermediario interessato. Il rapporto tra i due gruppi è di una decina d'anni fa e la genesi è interessante. Cioè 10 anni fa Italcemetti cedette a Heidelberg Cement, fece un trasferimento tecnologico e di know-how su il cemento fotocatalitico, che è uno dei prodotti all'occhiello di Italcementi e dell'industria italiana. È il cemento che disinquina, cioè che utilizzato per che la assorbe, certo, ne parlavamo anche noi, assorbe certo lo smog, esatto, e ributta fuori aria pulita sostanzialmente. Ora, la genesi dunque è di questo tipo. Non a caso le due ragioni industriali dell'interesse tedesco sono i laboratori di ricerca e sviluppo di Bergamo e le competenze tecnoscientifiche oltre che manageriali, e poi la seconda ragione, che penso sia altrettanto preponderante, altrettanto importante, è il fatto che prendendo una cartina del mondo, i mercati su cui i due gruppi sono presenti, pur con dimensioni diverse, sono assolutamente complementari. Heidelberg Cement è fortissimo nel Sud America, in Asia e in Europa, in particolare dell'Est. Italcementi è fortissima in Italia e in Francia, naturalmente, questa è l'eredità di Cement Français del 92, e nel Nord Africa, ha una presenza discreta anche in Asia e una buona presenza nel Nord America. Quindi nasce proprio l'operazione all'interno di un interesse industriale strategico da parte dei tedeschi di assorbire una realtà più piccola, ma già ampiamente globalizzata, in grado Chiaro. Di portare al proprio interno competenze tecnologiche che loro non hanno. Mm-hmm. Ripeto, nasce tutto dal caso del cemento disinquinante antismog, e di portare al proprio interno mercati che loro stessi non hanno. Quindi la ragione industriale c'è tutta, ecco. No, chiaro, è chiarissimo, e ripeto, queste cose necessitano di analisi, ma non di ideologismi, perché ci possono essere, l'abbiamo viste nel passato, operazioni finanziarie. Non so, la vicenda Whirlpool Indesit ha dei dubbi, li ha suscitati anche nel governo e anche nell'osservazione, ma per quello che dico, usciamo dalla lettura ideologica, è giusto che arrivino gli stranieri sempre bene oppure sempre male che arrivino gli stranieri? Vediamo se c'è un profilo industriale, e su questo anche i soldi sborsati, e ripeto, se permettete, anche il fatto che sia tutta un'operazione industria su industria, senza capitale privato di carattere finanziario e con logiche più speculative, qualche garanzia in più dovrebbe offrirla. Grazie a Paolo Bricco in collegamento. Grazie con noi. Il traffico. Sebastiano. State ascoltando un programma offerto da Se parti, parti con noi. Europa Assistance. You live, we care. Focus Economia. Allora, la borsa oggi è soprattutto, come ricordavamo, Italcementi e Italmobiliare, la finanziaria della famiglia Pesenti, che ha ceduto la quota. Italcementi più 49,47, non è ancora a livello dell'offerta, è 9,85 €. Italmobiliare più 27,87%. Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Al di là di questa vicenda che abbiamo ampiamente commentato, il resto abbiamo visto muoversi bene il comparto del lusso, e invece Luxottica ancora sui conti ottimi della trimestrale, invece meno bene CNH e Saipem. Vai tu con un commento complessivo. Sì, diciamo che tutto risente dell'effetto delle semestrali che in questi giorni vengono pubblicate. Così il comparto del lusso è andato bene, perché soprattutto ieri sera il colosso del lusso francese LVMH ha pubblicato conti in crescita. Erano già andati bene quelli sempre della francese Kering, che praticamente detiene Gucci, ma ieri sera LVMH è andata bene oltre le attese degli analisti, per cui questo ha dato verba a tutto il settore. Moncler è salita dell'1,28 nell'attesa dei conti che sono in pubblicazione adesso. Per quanto riguarda invece l'effetto semestrale, si è fatto sentire su CNH e su Saipem, in questo caso in senso negativo. Saipem ha perso il 3,4, CNH il 4,13%. Saipem ieri sera ha pubblicato conti che ovviamente non sono piaciuti al mercato. La società ha accusato un rosso di 920 milioni anche a causa di una serie di svalutazioni, oltre che dell'effetto della cancellazione del progetto South Stream. Per quanto riguarda CNH, oltre ai conti in calo, il fatturato ad esempio è calato del 10%, non è piaciuto al mercato il fatto che i manager dell'azienda hanno rivisto al ribasso le previsioni per l'intero anno. Eh sì, quello che sono le semestrali guidare tutto, al di là della vicenda appunto Italcementi, Snam utile semestre più 9%, appunto deludente invece quello di Saipem, CNH pure ha registrato un peggioramento. Complimenti al gruppo di Del Vecchio invece, ma il dato era del 27 luglio, più 25%, 295 milioni di euro l'utile, ricavi a 2 miliardi 400 milioni. Restiamo in tema di banche, ma nel ringraziare Eleonora Micheli, vi do altri dati sul mondo bancario in borsa. Banco Popolare più 0,88, poco mosso oggi, Popolare Milano più 0,31, i migliori e peggiori sono, oltre ai Italcementi, Innovatec più 13,70, Buzzi Unicem, il Sole 24 Ore più 6,45%, e poi Buzzi Unicem, lo ricordavamo. Fronte opposto, EMS meno 23,50, Warfila meno 6,80, Class Editori meno 6,50, Digital Brothers meno 6,30. %, dicevo, grazie Eleonora Micheli, e noi invece cerchiamo di capire cosa si muova nel mondo bancario, non dei titoli quotati in borsa o quelli più conosciuti. Sappiamo che lì nel mondo delle popolari, con la riforma di legge per le popolari che hanno più di 8 miliardi di euro di asset cambierà tutto, ma anche nel mondo meno visibile delle volte delle casse rurali delle banche di credito cooperativo, perché oggi a Piazza Affari hanno annunciato un'operazione importante sia nello specifico che come, diciamo, linea guida forse per il futuro. Stiamo parlando delle casse rurali trentine. Per chi conosce la storia di questo paese sa che la cooperazione in Trentino, il cooperativismo sociale in Veneto, in Friuli, oltre che in Emilia Romagna, è una cosa seria, una cosa su cui si è costruito anche lo sviluppo economico di quelle regioni. Dicevo, le casse rurali trentine e buona parte delle banche cooperative del Veneto e del Friuli hanno rotto gli indugi e vorrebbero, se ho ben capito, arrivare a costituire una realtà autonoma e consolidata. Chiedo che cosa avete annunciato oggi al direttore generale di Cassa Centrale, Mario Sartori. Buonasera. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Aspetta, si chiamerà Gruppo Cassa Centrale Banca e questa è la holding. E che cosa va dentro in pancia? Beh, si chiamerà Gruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano, questa è la grande novità. Lei ha detto bene, noi nasciamo a Nord-Est, nasciamo in Trentino, in Veneto, in Friuli Venezia Giulia, abbiamo un'esperienza ormai però pluriventennale di rapporti bancari industriali con molte banche di credito cooperativo di molte regioni italiane, per cui oggi abbiamo presentato, dopo sei mesi dall'annuncio dell'ipotetica riforma del gennaio di quest'anno, dopo sei mesi abbiamo deciso di presentare il nostro progetto, che è quello che vedrebbe la nascita di un gruppo originale, un gruppo bancario cooperativo, e a fronte di questo oggi abbiamo presentato il nostro modello sia di credito cooperativo che di, appunto, di gruppo bancario. Ecco, c'è chi dice che questa sia una mossa, diciamo, per anticipare poi le direttive della riforma del settore annunciata dal governo a gennaio e per evitare di confluire, che tutte le 379 banche cooperative italiane confluiscono sotto il controllo della centrale ICREA, che è l'Istituto Centrale di Credito Cooperativo. Insomma, l'obiettivo che vi ha portato alla creazione di questa holding qual è? Muovervi prima che siate obbligati dalla legge, dal governo? Ma allora, sicuramente c'era anche bisogno di dare un segnale forte. Noi siamo un sistema che ha una storia importante, ma sappiamo che abbiamo anche necessità di evolverci e di migliorare sul profilo dell'efficienza, della redditività, eccetera. Noi negli anni abbiamo costruito un percorso, noi abbiamo un sistema informativo, meglio abbiamo due sistemi informativi che vedono 171 banche di credito operativo in Italia a usufruirne. Questo ci ha portato poi a ipotizzare la nascita di questo gruppo industriale, che naturalmente il nostro desiderio è che rimanga nell'alveo del movimento cooperativo italiano, ma che certamente anche sottolinei l'esistenza di un gruppo bancario che può sicuramente arrivare ai numeri complessivi di una grande banca interregionale e nazionale. E quindi ma cambierà poi la logica, per concludere, Sartori, delle casse rurali delle BCC? Perché noi abbiamo un criticato, insomma, però ricordiamo molto bene quello che è il rapporto col territorio, il legame col territorio, il fatto che quando scoppiò la crisi, parlo quella del 2008-2009, lì ci fu maggiore tenuta, proprio anche per un rapporto molto vicino con il credito, non magari di grande portata, ma molto diffuso sul territorio. Cambierà qualcosa in quella che gli esperti, con questo odioso inglesismo, chiamano la mission? Ma allora, lei ha detto bene, ma l'ha riconosciuto in tanti, della verità. Noi, come banca di credito operativo, abbiamo svolto un po' una missione un po' anticiclica. Nel momento della crisi, sicuramente abbiamo supportato molte famiglie, sicuramente molte imprese nel ciclo del credito. Questo è stato un'attività importantissima, fondamentale direi, ma che chiaramente ci ha portato poi a bordo anche qualche crisi, qualche problematica, qualche inefficienza. La sfida che noi abbiamo presentato oggi non è solo quella di presentare il gruppo bancario Cassa Centrale Banca, che comunque ha un consenso ormai già di un centinaio di banche, ma l'ha detto lei, noi la sfida è coniugare nel futuro la storia delle BCC, che è fatta di localismo, di territorio, di attenzione alla persona, con l'evoluzione di un gruppo bancario moderno. Il modello che abbiamo presentato oggi ha questo obiettivo, crediamo che sia possibile coglierlo, ed è la proposta che noi facciamo al legislatore e anche alla vigilanza. Oh, in bocca al lupo, se riuscite a coniugare rapporto col territorio, ma anche insomma spalle un po' più grosse e qualche riduzione dei costi, visto che insomma poi di solito si va verso le sinergie in questi casi. In bocca al lupo, grazie al direttore generale della Cassa Centrale Mario Sartori. E come sempre da qua fino a fine agosto il programma nella versione estiva si interrompe alle 18. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata.